Civiltà. I parchi nazionali. A. Ascolta e completa il testo. I parchi nazionali italiani sono 22 e coprono circa il 5% del territorio nazionale. Prima del 1990 i parchi erano solo 6, ma negli anni 90 ne sono nati altri 14. Il più grande dei parchi storici è il Parco Nazionale dello Stelvio, che si estende nel cuore delle Alpi Centrali. È nato allo scopo di tutelare la flora, la fauna e le bellezze del paesaggio montagnoso. Infatti qui gli amanti della natura possono ammirare animali come cervi, caprioli, stambecchi e volpi ed anche una grande varietà di uccelli, inclusa la splendida aquila reale.